d'argene e di statira il semplice trattar. Esser ben tonno non inutil soccorso a quel pensiero che l'intimo del cor va consumando.